Sì, diciamo che uno dei motivi per cui noi abbiamo trattato questa carta sono molteplici. Diciamo che è nata in maniera molto spontanea perché già da qualche anno noi avevamo preso il contatto con alcuni produttori che abbiamo incontrato qua durante Critical Wine. Però diciamo che c'è dietro anche un progetto. Il progetto della nostra azienda in questi ultimi anni si è concentrato tantissimo sull'autosufficienza agroalimentare dei nostri fabbisogni per il ristoro. Ovviamente, per quanto riguarda il vino, non essendo una zona vocata, anche se abbiamo recuperato un piccolo vigneto, noi abbiamo cercato, da qualche anno, di avere dei contatti diretti con degli agricoltori, con dei veri contadini, con dei veri agricoltori. Questa è stata forse, diciamo, la molla principale che ci ha spinto ad adottare questa carta, perché è una carta che ci garantisce una, come dire, questa genuinità del prodotto e del produttore. In questo momento storico, lavorare con degli altri agricoltori è importante. Infatti, stiamo cercando di creare una rete tra agricoltori della zona della Biatense, sia per lo scambio interaziendale che quasi fra un po' diventerà una specie di baratto, e anche qui c'è un po', chiamiamolo, un cambiamento, tra virgolette, molto importante, e perché mantenere gli agricoltori nella nostra zona vuol dire mantenere il territorio agricolo, che è una delle più grosse urgenze che abbiamo nella provincia di Milano, ma in tutta la Lombardia, credo, oramai a questo punto. Quindi diciamo che questa carta dei vini si inserisce in un progetto più globale di valorizzare il prodotto agricolo, di valorizzare le aziende agricole e di fare appunto rete tra aziende agricole. Io spero che questa carta diventi anche una carta dei prodotti agricoli un giorno, perché come evoluzione potrebbe anche diventare una carta dove ci sono anche cereali, dove ci sono anche altri produttori, non solo di vino, non so se mi spiego, cioè che parta proprio un discorso di scambi tra aziende, perché molti dei viticoltori magari hanno un agriturismo e non producono riso, per esempio, e noi non produciamo vino e compriamo vino da altre aziende. Questa in linea di massima è stata così l'idea per cui abbiamo cominciato questo progetto insieme al Folletto, giusto? Diciamo come si sta comportando il pubblico rispetto a questa esperienza che oramai è partita da 3 mesi più o meno. C'è un pubblico molto interessato alla salvaguardia dell'agricoltura e al prodotto agricolo e al prodotto genuino. Ovviamente, in questo caso incontra un favore, un favore, è totalmente favorevole a questa carta e diciamo che è un ottimo modo per anche sensibilizzare il nostro cliente o comunque in generale il consumatore a un'attenzione più forte rispetto alle problematiche dell'agricoltura e del settore agroalimentare. Adesso mi spiego meglio. Il consumatore, o come lo chiama Carlo Petrini, non so che qua parlare di Carlo Petrini non è proprio una cosa da fare, però lo cito. Carlo Petrini, no, vabbè, comunque io lo ricordo perché l'ha citato lui. Crea, diciamo, un'evoluzione di questo concetto del consumatore che come dice, lo trasforma in coproduttore. Cosa vuol dire? Che tutti i consumatori hanno un grande potere di decidere cosa produrre e in che modo gli agricoltori debbano produrre i loro prodotti. E questa è una cosa molto importante. Tutti noi dobbiamo essere consapevoli e coscienti di questo grande potere che abbiamo, perché in questo modo possiamo determinare le economie a partire dalle piccole microeconomie alle grandi economie. Per cui, sicuramente una carta nel nostro ristoro, una carta del genere, qualifica questo tipo di comportamento e dà una possibilità in più ai nostri clienti per scegliere un certo tipo di agricoltura.